Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, sono le 8:19 minuti e 12 secondi. Come molti di voi sapranno, avete sentito Gina Crivelli prima mi precedeva. Purtroppo oggi non è insieme a me e non era prima a fare il barlamento della stessa stampa il nostro carissimo Alessandro Mina. Un abbraccio a lui, ma tornerà domani, tornerà lunedì, non vi preoccupate. Aveva un impegno oggi che non poteva assolutamente derogare e ohimè, umilmente mi tocca da solo fare anche la sua parte. Ovviamente sapete che non sarà così perché non sono alla sua altezza, non sono milanista, non ho la passione di un milanista che soffre, e però devo dire che immaginarlo qui di fronte al risultato dell'Inter ieri in Coppa non avrebbe lesinato, come ha detto giustamente Meazza prima, ricordandovi cosa trovate sul Sole oggi, qualche battuta ironica a Meazza per il risultato non proprio esaltante dell'Inter in Coppa ieri sera, diciamo così. Allora, qualche osservazione come sempre a inizio trasmissione su giorno, il 4 novembre. Il 4 novembre per i santi a Milano è un santo particolare perché San Carlo Borromeo, uno dei fondamenti, per così dire, del cattolicesimo post-tridentino, lombardo e milanese, San Carlo Borromeo. Qualche riflessione, come sempre, come le faccio io, un po' caustiche. Famiglia ricchissima dei conti Borromeo, lui era secondogenito, quindi non doveva ereditare il titolo e quindi ovviamente viene tonsurato a 12 anni. Sì, di quella famiglia Borromeo a cui appartengono ancora le sorelle Borromeo, di cui una sposata con Achille Khan. Il potere discende dai lombi, nel nostro paese è ancora così, come sapete. E pensate che San Carlo Borromeo diventa cardinale a 22 anni, perché il Papa era suo zio, un De Medici, diventa cardinale senza essere prete. Prete diventerà dopo, vescovo diventerà dopo, però figura di riferimento del cattolicesimo post-tridentino. Poteva diventare Papa, scelto di no. Dopo la morte del fratello, anche lui avviato dallo zio Papa a una grandissima carriera in Curia a Roma, cambia, diventa di un cattolicesimo più sentito, più penitenziale e insomma passerà poi la sua seconda parte della vita, perché comunque muore giovanissimo, 46 anni, malato, a occuparsi davvero poi dei poveri qui a Milano, ma in tutto il nord, perché dovevate sapere che all'epoca la diocesi di Milano aveva possedimenti e titoli ex feudale che andavano dalla Liguria al Canton Ticino, oggi in Svizzera, fino al Veneto, quindi era amplissima e diventa appunto una poi delle figure di riferimento del cattolicesimo per il Concilio di Trento. E quindi San Carlo Borromeo oggi, insieme a San Carlo Borromeo, altri santi tutti nobili oggi però, perché per esempio Emerico, principe d'Ungheria, San Felice di Valois, sì, dei Valois che regnavano in Francia. Insomma, la Chiesa è attenta talvolta a scegliere non solo vergini, martiri e poveri, ma anche appartenenti a grandi famiglie. Cosa si celebra oggi come anniversario? Come avete già sentito, immagino, dalla rassegna stampa di giornale di oggi, è l'anniversario, ohimè, della grande alluvione di Firenze del 1966. Non dimentichiamo che in quel giorno anche Venezia però fu colpita da un'acqua alta 2 metri e tutto il nord-est fu inondato nel nostro paese. E avete sentito che in pochi si ricordano che però oggi nel 1956 2500 mezzi corazzati sovietici spensero sotto i cingoli e sotto il fuoco dei loro cannoni mitragliatrici l'anelito di libertà degli ungheresi. Certe cose non bisognerebbe dimenticarsene. Poi diversi presidenti americani eletti in questo giorno hanno vinto le elezioni, voglio dire, e sapete che anche in America, anche quest'anno, si avvicina questa scelta. Comunque nel 1980 Reagan oggi vinse le elezioni, Obama nel 2008 in questo giorno vinse le elezioni, si sta chiudendo il suo ciclo, per così dire. E che altro? Fermiamoci qua, insomma, in buona sostanza. E fatemi dire però, andando ai temi di questa puntata, noi avremo ospiti un po' tra terremoto e referendum, perché ci porremo prima la questione: ma si può votare davvero con i problemi che ci sono di ricostruzione, con la gente ridiffusa negli alberghi e fuori dai comuni, le operazioni di voto tra un mese del referendum, poiché è ribadito che il referendum non si sposta, si possono tenere regolarmente o ci sarà qualche problema? E avremo con noi il Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, e Stefano Petrucci, Sindaco di Accumuli, uno dei paesi, lo ricordate bene, che è stato colpito dal terremoto di agosto in provincia di Rieti. Poi, per riequilibrare l'ospite settimanale che abbiamo già avuto per il sì, avremo per il no referendum il professor Ugo Arrigo, docente di scienze delle finanze e finanza pubblica. Ma la domanda che io vorrei porvi, se volete intervenire oggi all'800 24 00 24, è un'altra, che deriva sì dal grande problema come ricostruiamo dopo il terremoto, ma che parte dallo spunto che oggi viene dato da due quotidiani diversi, in particolare da Repubblica da una parte e dal Messaggero dall'altra. E cosa ci dice Repubblica? Repubblica dà una grande evidenza a un interrogativo che nasce da una delle scelte del sindaco Raggi di Roma. Che cosa ha scelto il sindaco Raggi? Con una certa coerenza rispetto al modo in cui hanno impostato le elezioni di 5 Stelle a Roma, ha preso la decisione che la linea C della metropolitana, i cui lavori sono cominciati nel 2007 e che sono in grande ritardo, nel 2015 la tratta della linea C è arrivata alla stazione Pigneto Lodi, per il 2017 è saltata la consegna della tratta fino a San Giovanni, e poi i lavori in corso fino al 2021 è la tratta del Colosseo, che dovrebbe essere consegnata entro 5 anni, e la tratta poi doveva continuare fino a Clodio Mazzini, piazza dopo San Pietro, Risorgimento, piazzale Clodio, e il sindaco e la giunta ha deciso basta, l'ultimo tratto, cioè quello post Colosseo, di cui comunque si attende il compimento dei lavori entro 5 anni, fino a piazzale Clodio niente, mettiamoci una pietra sopra, perché la società dei progetti ha sprecato troppi soldi, siamo in presenza di una lievitazione dei costi enormemente elevata, finora sono stati spesi 3 miliardi con un surplus di 700 milioni dovuti a difetti di progettazione. E insomma Repubblica titola una riflessione di Sebastiano Messina, dopo aver dato ampio rilievo a questa notizia che gli altri giornali trascurano tantissimo, e su Repubblica Sebastiano Messina si chiede: non fare per non rubare? Il vicolo cieco anticorrotti, le Olimpiadi rifiutate, la Nuvola con le polemiche che ci sono state di Fuxas nei giorni scorsi, ora la metro, il rischio che la terapia dei 5 Stelle contro gli sperperi chiuda tutte le porte allo sviluppo. Però gli sperperi ci sono stati, i ritardi ci sono. Questa prima notizia su Repubblica. Invece il Messaggero fa un primo bilancio delle opere che erano state promesse per il Giubileo straordinario a Roma, che si sta chiudendo con un esito larghissimamente insoddisfacente. Ancora una volta era stato presentato questo Giubileo straordinario, ha detto la Papa Bergoglio, come una grande occasione per rilanciare l'economia, il turismo, eccetera. Non si è visto nessuno, in parole povere, non c'è stato nessun particolare afflusso. E su questo che cosa ci dice il Messaggero nelle pagine di Roma? Che ancora una volta, rispetto alle promesse di opere moltiplicatrici, di reddito, di accelerazione dei tempi infrastrutturali di Roma, eccetera eccetera, la verità è che il bilancio è molto ma molto diverso rispetto agli annunci. Di 146 interventi straordinari annunciati per il Giubileo straordinario di Papa Bergoglio, solo 46 portati a termine. Allora, queste due notizie che cosa ci dicono? Che oggi c'è un Consiglio dei Ministri in cui si annunciano delle deroghe straordinarie per consentire agli amministratori post terremoto di intervenire più rapidamente. Ecco, io vi chiedo, dobbiamo, è giusto o meno a un certo punto prendere atto che se si spende troppo e c'è troppa corruzione, troppe varianti alle opere, i tempi slittano come alla metro C di Roma, prenderne atto e dire inutile continuare a buttare soldi, fermiamoci a un certo punto dove si è arrivati. Cosa ci insegnano la moltiplicazione di vicende come quella delle opere straordinarie del Giubileo di Roma? Che cosa ci dice di queste deroghe che oggi verranno prese di nuovo rispetto alle tante indagini penali? Ecco, mi interesserebbe sapere la vostra opinione, perché altrimenti ogni volta, ogni inondazione, ogni terremoto, deroghe, e poi ci troviamo puntualmente con un bilancio come quello che oggi, sia pure su opere ordinarie e straordinarie insieme, la metro C a Roma e poi quelle del Giubileo straordinario a Roma, è un bilancio, è inutile che ci illudiamo, negativo, deludente per tante ragioni. Allora, cominciamo però, cari ascoltatori, con il quesito che riguarda la regolarità delle operazioni elettorali nel prossimo referendum nelle aree colpite dal terremoto. Abbiamo con noi il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, che è stato qualche giorno fa responsabilmente ha sollevato la questione. Dice: beh, dovremmo confrontarci con il governo, perché qui abbiamo non solo i comuni del cratere di questo terzo evento sismico dopo quello di agosto e quello del 26 ottobre e quello del 30 ottobre nelle Marche, ma poi abbiamo anche molti comuni fuori dal cratere, diverse decine di comuni che sono stati comunque molto colpiti, e lo abbiamo capito nelle ricostruzioni giornalistiche fatte da televisione e radio, anche di comuni che stanno fuori dall'epicentro, nel Maceratese, Tolentino e così via. Luca Ceriscioli, presidente della Regione Marche. Buongiorno presidente, grazie di essere buongiorno con noi. Buongiorno a voi. E abbiamo anche con noi Stefano Petrucci, sindaco di Accumuli, purtroppo uno dei comuni del Rietino colpito d'agosto e poi ricolpito negi eventi del 26 e del 30 di ottobre. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti. Presidente della Regione, ieri il governo e il presidente dell'ANCI, anche il nuovo presidente dell'ANCI, De Caro, sindaco di Bologna, di Bari, hanno detto: no, vabbè, possiamo prendere l'impegno che la regolarità delle operazioni elettorali referendarie, voglio dire, ci sarà. Lei che pensa, presidente? Io ho fatto un ragionamento di natura pragmatica, nel senso che al di là del dibattito nazionale sulla data del referendum, segnalando che c'erano tanti comuni che non avevano più neanche una sede, e nei giorni scorsi praticamente i sindaci avevano allestito nei luoghi più diversi, chi addirittura sotto una tenda, chi in strutture che non erano ovviamente la sede principale, dei primi spazi per ripartire come attività comunale. I prefetti sapevo che stavano lavorando proprio per capire se tutte le operazioni, perché l'elezione non è solo fatto il momento in cui si mette la scheda dentro un'urna, è fatto di tanti passaggi obbligatori, quindi la verifica ad esempio dell'anagrafe che va fatto 8 giorni prima dell'elezione, pensare al meccanismo del rilascio del certificato elettorale, ma quelli che sono fuggiti da case crollate, situazioni del genere, non è che sono fuggiti mettendosi in tasca il certificato elettorale, diciamo che era l'ultimo pensiero in quel momento. Cose molto pratiche, molto semplici, molto concrete. So che i prefetti sono stati incaricati e stanno seguendo, proprio monitorando, verificando se tutti questi aspetti è possibile realizzarli da qui alla data del voto per avere le condizioni di correttezza democratica per la partecipazione. Perché per esempio, scusi, per spiegare ai nostri ascoltatori, ma nel caso per esempio dei tanti cittadini che sono stati redistribuiti, anzi invitati fin dal primo giorno a superare le loro più che comprensibili resistenze a non lasciare i paesi perché chiedevano le tende, ma e sono stati redislocati temporaneamente in varie strutture alberghiere, ecco, in quel caso il modello, per farci capire, è quello delle sezioni speciali degli ospedali, come sa chiunque, è capitato nella vita qualche volta di votare all'ospedale. L'ospedale, chi è in quei giorni in degenza ospedaliera, può votare in un seggio straordinario. Naturalmente bisogna comunicarlo così. Oppure no, perché altrimenti come si fa a sapere chi sta dove per ognuno di quelli? Allora, come dicevo prima, guardi, la parte finale, cioè il momento in cui col mio certificato elettorale metto la scheda in un seggio, è la cosa più semplice da gestire. Noi sappiamo certo dove sono tutti, albergo per albergo, quelli sono i più sicuri, insomma, di chi sia dove sono. Quelli che non si conoscono sono le persone che autonomamente hanno trovato una soluzione presso amici, parenti, in una seconda casa e via dicendo, e quindi l'hanno fatto senza una segnalazione. Quelli che conosciamo meglio sono quelli in albergo. E dicevo, la scheda nell'urna è la cosa più semplice, urne speciali, elenchi, vi dicevo. È il lavoro che si fa prima, sì, che ripeto è sconosciuto ai cittadini, ma è che soprattutto non si può chiedere ai comuni che si mettano a fare in termini prioritari quel lavoro lì. Assolutamente oggi. Sì, ma spesso non hanno più accesso magari ai dati, al server con l'anagrafe, non c'è più un ufficio elettorale perché è predisposto alle attività di preparazione un ufficio elettorale. È quella che da un lato potremmo chiamare burocrazia, ma dall'altra si chiama anche garanzia democratica del corretto svolgimento. Allora, lei dice, vabbè, io prendo atto che il governo l'ANCI dice che si può fare, ma insomma bisognerà vedere. Ecco, se con sano realismo e sano pragmatismo. Con sano pragmatismo. Posso chiedere un'impressione, so che non vorrei anticipare il giudizio, vediamo cosa fa il Consiglio dei Ministri oggi, ma sulle deroghe attese oggi dal Consiglio dei Ministri? Lei che posso pensa? Raccontarle le deroghe che conosco. Le faccio un esempio perché sempre i massimi principi la realtà. È stata fatta la gara per gli allevatori, che loro non hanno alternativa, un allevatore deve stare vicino ai propri capi di bestiame, certo. Il bestiame in inverno deve stare coperto, questi sono due principi, chiamiamoli non derogabili, no? Ed è stata fatta una gara col sisma del 24 agosto, con tutti i crismi, con regole, eccetera, le buste sono state aperte due giorni fa e credo che oggi si sappia chi ha vinto quella gara. Con il sisma di pochi giorni fa, gli allevatori con problemi sono più che raddoppiati. Quella misura prevista per legge con la gara ha il vincolo del quinto d'obbligo, cioè non si può aumentare un contratto oltre un quinto della sua quantità. Quindi la gara è stata fatta, c'è il quinto d'obbligo, ma siamo i primi di novembre. Allora, se volessimo dare a tutti gli altri allevatori, non rifacendo due mesi di gara, ma l'opportunità di avere la stessa cosa, l'eliminazione del quinto d'obbligo, che è una deroga rispetto alle regole, permetterebbe di installare, quindi non 45 nelle Marche, strutture, ma le 125 che ci servono oggi. È evidente che andiamo in modificazione di una regola, ma lo faremo all'interno di una gara già svolta con tutti i crismi, dove anziché aumentare del 20 si aumenta di più, ma non dietro un patto diabolico tra la pubblica amministrazione e l'imprenditore, ma per dare una risposta a quegli allevatori che sono in montagna. Ammetto che l'esempio è molto chiaro e io ringrazio il presidente di questo. Devo dire che siccome però noi ieri ci siamo occupati qua di una gara Consip, casette per uso terremoto, di quasi 1000, gestita dalla Consip, il cui poi prezzo di aggiudicazione è arrivato praticamente a pochissimo meno di 1100 euro al metro quadrato. Ecco, allora bisogna vedere deroga e deroga. L'esempio che ci ha fatto lei è un esempio che parla da solo, punto. Siccome l'inverno avanza e i capi di bestiame altrimenti non vanno in tutela, è ovvio che ha ragione lei. Su altre cose io spero che oggi il governo tenga conto delle lezioni accumulate fino a questo momento. Sentiamo cosa pensa il sindaco di Accumuli Petrucci della possibilità che innanzitutto ad Accumuli si possa votare al referendum ordinariamente e che questa debba essere una delle preoccupazioni su cui mettere le risorse del comune a lavorare, quando è tutt'altro l'ordine di priorità. Lei che dice, sindaco? Ma io mi associo alle difficoltà che ha già rappresentato il governatore delle Marche, perché comunque sono tutte quelle attività propedeutiche al voto che sono comunque in difficoltà. Noi per esempio siamo qui in una tenda, da domenica abbiamo dovuto rimuovere di nuovo gli uffici da una struttura prefabbricata e ricollocarci in una tenda, quindi siamo ritornati indietro di due mesi, con tutte le difficoltà del caso, perché ancora stiamo allestendo gli uffici con e poi mi pare che anche gran parte del lavoro tecnico ispettivo per l'agibilità eccetera eccetera nella straordinaria maggioranza dei casi va rifatto da capo purtroppo, per forza di cose, perché dopo un vento di 6.5 tutte le verifiche devono essere comunque riverificati di nuovo, tutti gli esiti delle verifiche non hanno più alcun valore dopo una scossa del genere, quindi questa è un'attività tecnica che però è a prescindere dal discorso referendum. Il referendum appunto, ecco, noi ci troviamo con una difficoltà oggettiva per poter arrivare al giorno del voto, in più abbiamo circa metà della popolazione sulla costa e altra, qui in loco ci sono circa 70 persone e il resto della popolazione è sparsa in tutto il centro Italia, in autonoma sistemazione, quindi esercitare un diritto al voto non è così semplice per noi, per tutti. Ecco, io mi fermo di fronte a questo tono che avete sentito, un tono misurato, Maro, ma molto realistico nel dire che prima di dire che non c'è un problema su questo, no, il problema c'è, cari ascoltatori, vedremo quali risorse aggiuntive il governo, la prefettura eccetera eccetera consentiranno nel tempo di far capire davvero che mettono concretamente a disposizione, perché altrimenti il diritto di voto di questi italiani che oggi hanno altre priorità ma che devono poter votare è fortissimamente in discussione, perché io credo che il tono, ripeto, misurato a cui è arrivato il sindaco di Accumuli, Stefano Petrucci, sia chiaro nel dire che il problema è ben lungi da essere facile, da essere risolto. Grazie anche al sindaco di Accumuli e buon lavoro, davvero noi siamo qui per qualunque cosa servisse. Noi ci sentiamo tra un minuto. 24 mattino, attenti a noi due. Eccoci qui tornati in diretta. Oscar Giannino, attento noi due, stamattina da solo, perché Alessandro Mina però torna con noi lunedì, oggi c'aveva un impegno inderogabile, mi prega di salutarvi a distanza e lo faccio, e noi lo abbracciamo. Questa casa aspetta te, Alessandro. Allora, detto questo, allora sentiamo intanto per quello che ci hanno telefonato Marco che ci chiama da Mantova. Marco, prego. Ciao Oscar, eccoci. Marco Filarin da Mantova. Sì. No, volevo intervenire sul discorso che avevi fatto appunto del Repubblica e del Messaggero, sì, che tanto per cambiare attaccano il sindaco Raggi. Sì. Io sono d'accordo con il sindaco, perché stiamo arrivando a dei livelli che, pur di fare i lavori, accettiamo che i lavori vengano svolti in 30.000 anni in più di quanto serviva effettivamente il tempo, e anche di quanto effettivamente era il preventivo, e soprattutto le varianti d'opera sono riuscite a portare gli ascoltatori di Radio 24 a 13 miliardi di debiti per colpa di questa gente che non è capace a fare 1+1, o per meglio dire che magari si aggiudica le gare a un prezzo X, no, e poi nel tempo i costi, ecco. Perché se io avessi un'azienda così sarei già fallito 30.000 certo. volte. Questo non c'è dubbio. Si devono vergognare anche andare avanti per anni a continuare a fare dei lavori che potrebbero anche non servire, uno, e due, a continuare a dar da mangiare a questa gentaglia. Se io ti faccio un preventivo, se io vendo, sono un commerciale, se faccio un preventivo per un prodotto a 100 euro, se ti arriva poi la fattura a 150, tu cosa fai? Me lo paghi? No, ma certo, ma stai scherzando. E allora, ripeto, 13 miliardi di debiti. La percentuale di sborsi aggiuntivi rispetto al preventivo, parla chiaro, non solo numero, lo rifaccio, per la metro C a Roma sono stati spesi fino a questo momento 700 milioni più del previsto per i soli difetti di progettazione, 700 milioni, quindi doveva essere a questo punto la spesa di 2 miliardi e qualcosa, e 3 miliardi per i soli difetti di progettazione, per essere chiari. Non stiamo parlando di qualcosa che si inventa il sindaco oggi, e quindi a me sorprende che anche Repubblica oramai dica vabbè, ma bisogna andare avanti, qual è il problema? Che anche Repubblica ragioni così, ma vabbè, la politica prevale secondo me sui fatti. Ecco, come devo dire, sui fatti, cioè sui numeri. Io non ne faccio questione di essere filogredino o antigredino, io dico che bisogna imparare dai fallimenti. Se noi continuiamo a ripeterli, bene, vista la quantità di eventi straordinari, ritardi infrastrutturali nei trasporti pubblici locali e nazionali, terremoti eccetera eccetera, purtroppo le circostanze che dobbiamo affrontare ci mettono di fronte a un recupero enorme di ritardo di opere infrastrutturali, di messa in sicurezza del patrimonio edilizio. Se tutto questo noi lo facciamo col vecchio criterio, bene, arriveremo dai 2.000 miliardi erotti attuali di debito pubblico a 3.000 miliardi. Non può essere il criterio bisogna farlo comunque, certo che bisogna farlo, ma non con questi criteri, perché altrimenti bisogna fermarsi e riflettere. Questa è la mia idea. Ero per questo anche contro le Olimpiadi come priorità. So che per Confindustria, editore di questa radio, era un'opinione sbagliata che non dovevo diffondere, però ognuno ha le sue opinioni fondate sui fatti, non mi interessano le scelte elettorali da questo punto di vista. Devo dirvi che prima di andare al nostro nuovo ospite, oggi i giornali offrono una incredibile quantità di stimoli sul campo politico. Io mi limito a dire questo: pensate a questa novità grande che è l'apertura di quasi tutti i giornali italiani, non tutti ma insomma la maggioranza, quella della sentenza dell'alta corte britannica che dice che per l'uscita dalla Gran Bretagna non può esserne il governo, il titolare, ma deve avere un voto del Parlamento. Tutti brindano, giustissimo. Pensate però alla contraddizione in una sola settimana di questi paradossi della crisi della sovranità e del voto rappresentativo nella crisi europea. In pochissimi giorni l'Assemblea della Vallonia, che aveva detto no alla ratifica del trattato tra Unione Europea e Canada, un Parlamento, quindi sia pur locale, ha dovuto piegarsi in 72 ore di fronte alla pressione sovranazionale del resto dell'Unione Europea. E quello era un Parlamento, sia pur locale. Passano pochi giorni e tutti brindano oggi al fatto che l'alta corte britannica, secondo me giustamente, dice al governo britannico: ti devi piegare a un Parlamento questa volta. E qui bisogna però che, vedete, il criterio è ballerino, vuol dire che c'è una grande crisi e nessuno sa che pesce prendere, perché se a distanza di pochissimi giorni un Parlamento viene sconfessato e tutti brindano. E pochi giorni dopo, ieri in Gran Bretagna, il Parlamento ridiventa centrale rispetto al governo per l'attivazione della clausola dell'articolo 50, l'uscita dell'Unione Europea, e tutti brindano, vuol dire che brindiamo di volta in volta semplicemente a decisioni di cui ci piace la conseguenza, ma non c'è la stessa logica. E questa è la grande crisi della rappresentanza, da una parte i parlamenti, dall'altra i governi, dall'altra la sfera sovranazionale, e infine quello che pensa la gente comune, perché la gente comune, se lo vai a chiedere, dice: esco dal Regno Unito senza pensare troppo alle conseguenze. E in Italia, se glielo vai a chiedere, dice: non mi piace più l'euro e voglio uscire pure io. Ecco, e siccome se non troviamo una risposta logica e di volta in volta brindiamo a soluzioni opposte perché ci sembrano comuni ma sono opposte, vuol dire che non abbiamo più un'idea di come si mette insieme la rappresentatività dell'opinione popolare con i livelli di rappresentatività nazionale e sovranazionale. Prima questione. Seconda questione, ma finisco subito. E la politica interna, perché ci sono oggi sui giornali delle cose di un certo rilievo, per così dire. Cioè, per esempio, La Stampa dice che ieri era del tutto in corso la trattativa tra Berlusconi e Renzi per il rinvio del referendum. Tanto è che La Stampa, e devo dire l'unico quotidiano italiano che entra molto in dettaglio sulle condizioni che Berlusconi ha mandato ieri a Renzi per rinviare il referendum, sono tre. Le trovate a pagina 2, scritte da Ugo Magri, che conosco da tanti anni e so che non si inventa mai niente, non è un retroscenista, è una persona serissima. Quindi tre condizioni pesantissime che ieri Berlusconi ha chiesto a Renzi, Renzi le ha rifiutate, e purtuttavia la trattativa, al di là del diniego di Renzi che ha subito liquidato l'ipotesi del rinvio dicendo è una fesseria, c'è e come la trattativa. E dall'altra parte trovate sul Messaggero lanciata l'idea, con una ragionevole certezza attribuita al Presidente del Consiglio, che comunque si vota in ogni caso a questo punto in primavera, perché se vince il no si fa un passaggio tecnico con Padoan e Franceschini, se vince il sì a maggior ragione confida Renzi, il Quirinale sarà favorevole ad andare a un voto anticipato. Bene, teniamole lì queste riflessioni, ma andiamo a questo punto al nostro, diciamo così, periodo obbligato. Siamo in par condicio, noi poveri conduttori veniamo tartassati secondi alla mano per i tempi da dare. Dovete sapere che ci sono tre criteri diversi che dobbiamo rispettare. C'è un criterio di coloro che sono per il sì e per il no, e parliamo del sì e del no. Poi c'è un criterio di appartenenza ai partiti politici che vengono ascritti al sì e al no, e a quel punto è che ci sono dei partiti anche spaccati, ma noi dobbiamo fare il salto mortale per capire anche quello. E poi c'è un terzo criterio: governo rispetto a tutti gli altri. Sfido chiunque a beccare i secondi giusti, ma non solo per questo, ma perché siamo estimatori della sua precisione con cui ci risponde, come lo fa il professor Fusaro. Anche oggi per il no al referendum abbiamo con noi il professor Ugo Arrigo, che insegna scienza delle finanze e finanza pubblica alla Bicocca di Milano. Buongiorno e grazie. Buongiorno. Senta, io parto subito da una riflessione che ieri ho chiesto agli ascoltatori, domande da sottoporle, e alcuni mi hanno chiesto questo. Scusi professor Arrigo, è vero o non è vero che con i tempi certi che per il procedimento legislativo e per iniziative legislative del governo vengono posti con la riforma della Costituzione, il risparmio rispetto al ping pong infinito, e soprattutto il ping, a prescindere dal ping pong, prima non c'erano tempi certi, adesso ci sono tempi certi entro i quali il programma del governo viene tradotto in misure perché il Parlamento non può rinviare. Le chiedono un giudizio, professor Ugo Arrigo, su questo aspetto della riforma costituzionale e se sia valutabile dal punto di vista della finanza pubblica, dal punto di vista macro. Lei che dice? È, diciamo, una domanda molto precisa a cui non è facilissimo rispondere. Io però, diciamo, forse sintetizzo con una battuta, cioè che non ci sono tempi giusti per una decisione fatta bene. cioè non ci sono tempi certi per una decisione che vada bene, bisogna prendere le decisioni nel tempo che essa richiede. Quindi non è detto che avere tempi rapidissimi significa buona decisione. No, perché spesso avendo tempi molto rapidi si sbaglia. Questo lo penso che lo possa sapere qualunque manager o qualunque dirigente politico che si è trovato ad affrontare casi molto complicati. Io in mente grandi leader politici del passato, Winston Churchill o Cavour, insomma, sapevano prendere decisioni molto velocemente, ma sapevano anche aspettare quando le decisioni non erano mature. E quindi l'idea che si debba fare in fretta è assolutamente sbagliata. Il costituzionalismo è stato intentato teoricamente, in pratica, due secoli fa, quindi voglio dire, abbiamo un po' di esperienza storica, e il sistema del bicameralismo, dei diversi livelli di riflessione, serve per evitare di prendere decisioni sbagliate. È molto più importante non prendere decisioni sbagliate che prendere decisioni corrette. Nel campo della regolamentazione pubblica, cioè quando noi scriviamo leggi che limitano le libertà dei cittadini, delle imprese, eccetera, è fondamentale non prendere decisioni sbagliate. Un'altra domanda che viene per il tema che abbiamo sollevato stamattina sullo stop che viene al compimento, chissà quando sarebbe avvenuto, della linea della metro C a Roma. Il professor Ugarigo ritiene che con la nuova Costituzione a quel punto, per esempio, la metropolitana linea C sarebbe stata scritta come priorità nazionale con clausola di supremazia e decisa da Roma e a quel punto sussunta da Roma. Questo lo dicono alcuni perché sono anche molto colpiti dal fatto che Ferrovie dello Stato sembra oramai ragionare anzianamente come se ci fosse il nuovo testo costituzionale alla mano e quindi annuncia che compra società di trasporto locale a bizzeffe in tutta Italia. Che pensa il professor Ugarigo? Ma io sono molto scettico, cioè io da economista sono molto scettico sul fatto che le leggi siano lo strumento appropriato per regolare scelte economiche. E cioè in passato, quando è nata la democrazia, l'oggetto delle leggi erano le libertà dei cittadini, non erano le risorse economiche o le scelte economiche. Questa cosa qui dovremmo riflettere, oggi principalmente i governi amministrano le risorse economiche, però se noi leggiamo la nuova Costituzione, se leggiamo la vecchia e facciamo finta di essere marziani, di non sapere cosa fa lo Stato, cosa fanno le regioni, cerchiamo di desumere dal testo della Costituzione, noi pensiamo che l'attività del governo, cioè dello Stato e delle regioni, sia quella di produrre norme, invece no, amministrano risorse, amministrano 830 miliardi di spesa pubblica totale su 1600 miliardi di PIL annuale. Questa cosa qui non si vede dalle Costituzioni, non si vede dalle leggi, e quindi lo strumento è uno strumento, quello delle leggi è uno strumento spuntato, e purtroppo anche quello delle Costituzioni. Allora, intanto ringraziamo il professor Ugarigo, gli diamo appuntamento per i prossimi round di questo confronto a distanza che con il professor Fusaro per il Fronte LSI sostiene. Cari ascoltatori, l'appuntamento con Attenti a noi due e anche con il ritorno di Alessandro Ormina lei per lunedì prossimo, come sapete. Per invece coloro che oggi pomeriggio vogliono ascoltarmi 4:30 versione di Oscar e domani mattina dalle 10 alle 12 comunque in onda con i conti della Belva e i miei compari dei conti della Belva come ogni sabato. Buona continuazione.